Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Lo strumento più prezioso. Al cimitero, oltre a me e ai fantasmi, c'era solo quella meravigliosa signora che mi ha rivolto la parola in dialetto stretto. Io ero armata di una candelina da accendere ai miei morti e da riportare a casa perché lì non c'è modo di lasciarla senza rischiare di dar fuoco al cimitero intero. Quello che penso delle candele lo sai già, se hai ascoltato questa newsletter qui. Non amo le chiacchiere da bar, tantomeno al cimitero. Anche nelle interazioni più casuali mi rendo sempre conto che ogni persona è un oceano e io non so restare in superficie. Insomma, io avevo la mia candelina e facevano 2 milioni di gradi conditi da quell'umidità monsonica che solo Padova riesce a riprodurre. Allora, se era stato il caldo, l'umidità o i fantasmi, ho pensato a una cosa e senza frenarmi ho fatto questa proposta alla signora. Ho avuto un'idea stramba. Adesso gliela racconto e se non le va capisco benissimo e siamo amiche come prima. L'idea è questa. Potrebbe farle piacere se la accompagno dai suoi morti in silenzio e poi se lei ne ha voglia mi accompagna dai miei. Mary, che è risultato poi essere il nome della signora, non è sembrata nemmeno così sorpresa. Ed è stato tenero passare insieme i 10 minuti in tutto che i nostri rispettivi giri sommati hanno richiesto. Sono stata molto contenta di aver potuto trasformare le chiacchiere superficiali con una signora sconosciuta in un piccolo momento di umanità condivisa. Penso che siamo lo strumento più prezioso che abbiamo per far star bene le altre persone e di conseguenza noi stessi. Sapere come funzioniamo è la base essenziale del nostro essere umani. È incredibile quello che può succedere quando lo facciamo. Le persone intuiscono cosa desiderano e cosa sono in grado di dare. È la via per trasformare il mondo di oggi in un mondo migliore. È il modo per portare lo yoga fuori dal tappetino nella vita di ogni giorno. Quando riconosciamo cosa ci fa bene e cosa no, allora cambiamo il mondo. Io voglio essere circondata da persone che riconoscono i propri talenti e sanno come usarli per far bene a se stessi e quindi anche agli altri. Sono grata a Mary che ha accettato la mia idea e sarei stata grata anche se avesse preferito non farlo. E sono molto molto grata a tutti coloro che rispondono a questi audio direttamente o via WhatsApp o compilando il form qui sotto. Aprirsi a se stessi e alle altre persone è lo strumento più prezioso. Un modo speciale per farlo è partecipare al weekend yoga e tarocchi dal 16 al 18 giugno sulle colline toscane. Costruiremo il nostro personale arcano e scopriremo il nostro modo unico di stare nel mondo. Ci porteremo a casa centratura, leggerezza e nuove amicizie. Sbrigati a scrivervi. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Clarissa Pinkola Estés dal suo Donne che corrono coi lupi. Se hai una cicatrice profonda, quella è una porta. Se hai una storia molto molto vecchia, quella è una porta. Se ami il cielo e l'acqua così tanto che ti risulta quasi intollerabile, quella è una porta. Se aneli a una vita più profonda, a una vita piena, a una vita sana, quella è una porta. Un abbraccio gigante, Laura.